pericolo di fuga né inquinamento delle prove. Sulla questione dell'inquinamento delle prove, insomma, c'è una parte della richiesta della procura per confermare gli arresti che si basa su quella famosa telefonata del comandante De Falco con Spettino. In realtà il comandante De Falco poi fa marcia indietro, in che senso? Dice che poi in effetti questa questione sulla scatola nera, che Spettino potesse apportare la scatola nera, insomma, però il pericolo di fuga, insomma, esiste in tutti i cittadini italiani, voglio dire. Se il pericolo di fuga deve essere valutato sicuramente con un rigore minore e in considerazione che il comandante Schettino ha famiglia, ha patrimonio, ha tutto nel suo paesino e quindi, come dire, e poi ha un onore da difendere e che lui intende difendere, quindi insomma assolutamente non intende fuggire, come non ha fuggito nemmeno nell'occasione di cui si parla tanto. Ah, ecco, appunto. Senta, un onore da difendere, ma come sta Schettino? Ce lo dico, non ci può dire le cose riguardante le richieste. Cioè, ha capito che qualcosa di qualche errore l'avrà fatto anche lui? Ha abbandonato la nave, avvocato? No, la nave non l'ha abbandonata, la nave l'ha lasciata insieme ad altri. C'erano altre persone a bordo, però questo lui stesso lo dice nella telefonata, c'erano altre persone. E glielo dico subito, se lei mi consente. Lui stava sulla dritta della nave, il lato che poi si è inclinato, quindi nel momento in cui, onestamente, come si è arrivato a bordo della nave, c'è ancora qualche punto da precisare, ma in ogni caso ha lasciato la nave, perché così come tutte le altre, la nave si stava inclinando ed era pericoloso rimanere sia sul ponte che sulla nave stessa, che sulla lancia stessa sotto, e si è dovuto allontanare un bel po' anche per evitare, siccome ci si è trovati con i fumaioli nelle vicinanze, ci si è dovuto pure evitare perché era possibile, a quel punto era possibile pure uno scoppio, mentre il primo ufficiale Ambrosio è stato mandato dallo Schettino sul lato opposto proprio coordinare le lì altre cose. Si è trovato praticamente a dover poi gestire le ultime 300 persone circa. Ma secondo lei che cos'è il comandante Schettino? Il capro espiatorio degli italiani? Cioè di tutti gli italiani, anche lei avrà sentito quella famosa telefonata? Ma io credo che no? Il comandante Schettino sia l'indagato numero uno, e io mi meraviglio che sia il solo indagato. In che senso? Che la procura sta canalizzando le indagini, sottolineando la posizione dello Schettino. A nostro avviso forse ci sarebbero anche altri aspetti da indagare. Tipo l'armatore? Perché no? Guardi, questo non è un accuso, che l'armatore Costa è un grande armatore, quindi però non è perché che sia un grande armatore. Il comandante Schettino è indagato anche essendo un grande capitano. L'armatore però, Costa avvocato, è un grande armatore, potrebbe essere indagato. Il comandante, cioè che ha fatto, adesso ormai è abbastanza chiaro, adesso non so se lei ce lo vorrà dire, che ha fatto questo inchino, questo passaggio proprio raso Costa, è stato lui, cioè lui guardi, in quanto responsabile della nave. Le dico una cosa, quando il responsabile della nave l'inchino l'ha fatto lui, sicuro, certamente. Questa è una pratica diffusa, tra l'altro anche legittima per certi versi, nel senso che non vi è un'ordinanza specifica che preveda una distanza minima dalla costa, una manovra minima dalla costa. È la sicurezza. Si richiama i principi generali della sicurezza, appunto. Qualche cosa non ha funzionato in quella sicurezza, accerteremo cosa è che non ha funzionato in quella pratica diffusa, consentita e sollecitata da questo tipo di armatore, perché ovviamente questi inchini, Penisola Sorrentina, Capri, Isola del Giglio, si fanno diffusamente e sono richieste come momento di pubblicità dell'armatore stesso e di quell'attività stessa. E molto spesso sono sollecitate dagli stessi passeggeri. Ah, questo glielo posso confermare, lo so, non sono mai andato in crociera, ma conosco gente che ci va ed è vero. Lo chiedono, vogliono passare vicino all'isola i passeggeri. E poi succede questo. Poi dopodiché si deve vedere un attimino dal momento dell'urto, che comunque va ancora chiarito. Va precisato come mai, perché io stesso, insomma, ho avuto qualche esperienza diretta di uomo di mare nel passato mio giovanile, quando studiavo all'università per mantenermi agli studi, e quindi mi interesso di questo settore da ormai da 33 anni, come avvocato, e allora mi meraviglio un pochettino, insomma, magari ci sarà qualche cosa a me che non riesce ancora a chiarirsi, ma mi meraviglio come l'evoluzione dell'evento, questo lo si dovrà chiarire, si chiarirà nel processo, però mi dica umanamente cosa fa più male al comandante Schettino in questo momento? L'abbandono, il capo d'indagine circa l'abbandono, che poi tra l'altro non so se lei ha visto, ha sentito nel ci sono dei giornali inglesi del Lloyd's List, se ricordo bene, sì, che tra l'altro sono praticamente i giornali degli assicuratori, i quali in una pagina è scaricabile da internet, quindi non è difficile trovarlo, dove dicono il comandante Schettino ha fatto bene ad allontanarsi dalla nave, anche perché là nelle operazioni di questa natura, quando la nave non è più quella dell'equipaggio di 20-30 persone, non è più la nave di 120-130 metri, quando ci si trova però in prossimità della costa, dicono gli inglesi, non lo dico io, era opportuno che il comandante si allontanasse la nave e dirigesse le operazioni di soccorso da un altro vascello, da un'altra nave. Senta, ma non è che, cioè, voglio dire, prima c'è stato subito tutti contro Schettino, adesso cos'è? Si cerca di dire, c'è chi dice che Schettino è un eroe, si è comportato da eroe, sono pochi. Ma io credo che semplicemente dopo tanti messaggi mediatici abbastanza negativi, pare che la gente finalmente, dico l'opinione pubblica, pare che stia iniziando a capire che c'è qualche altra cosa da indagare. Ma è sicuro, ma su questo guardi, altra cosa da indagare si vedrà, ma è sicuro, cioè guardi che gli italiani sono, cioè, si sono fatti un'idea ben precisa, magari sbagliando, di Schettino, di quello che ha fatto. Certamente sbagliato, perché insomma l'abbandono è stato solamente quel capo d'indagine infamante per Schettino. Io sono convinto che è conseguenza di quella brutta telefonata col comandante De Paolo. Brutta in che senso? Io sono comandante di nave, sto su uno scoglio con la mia lancia, capire, coordinare alla meno peggio, ricevo una telefonata da un comandante di capitaneria, il quale inizia ad urlare, lei l'ha sentita pure lei, tutto il mondo l'ha sentita, a urlare dal primo momento, dalla prima parola, cioè quindi De Falco ha sbagliato, è stato perentorio, è sbagliato. Ma diciamo così che De Falco dietro la sua brava scrivania avrebbe potuto essere non accomodante, assolutamente non si deve essere accomodante, si deve essere comprensivi della situazione in cui il soggetto con cui sta parlando si trova, nel caso di specie lo Schettino. Un'ultima cosa, c'è possibilità che Schettino torni secondo lei a fare il comandante? In via teorica sì, praticamente dovremo vedere gli sviluppi della situazione. Cioè lui stesso non lo vorrà fare, è vero che ha detto metterò mai più piede su una nave, è vero che l'ha detto. L'ho letto sui giornali, nei primi momenti ha detto cose del genere. Non lo so. Intanto l'avvocato la ringrazio, la risentiremo e ci terremo in contatto. Grazie per essere stato con noi, avvocato Salvatore Parascandola, uno degli avvocati difensori del comandante Francesco Schettino. Noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo e poi allora torniamo su questi. Io non ho una parola diversa da blitz, so che non piace, i commercianti dicono che siamo criminali, però per capire, no? Blitz della Guardia di Finanza, quello che è successo a Milano, quello che succederà pare al sud, ora il capo dell'Agenzia delle Entrate befera, oggi Repubblica dice ed ora scandaglieremo tutti i conti correnti degli italiani, insomma vi piace questo atteggiamento alla John Wayne, ha detto Matteo Salvini, che sarà nostro ospite tra poco, oppure atteggiamento giusto di contrasto all'evasione fiscale? 24 mattino. Allora 800 24 00 24, vi piace quello che oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, intervistato da Repubblica in una intera pagina, 2-3 per la verità, dice e ora parte il piano primavera, e cioè controlli su tutti i conti correnti degli italiani, se uno ha 1 milione di euro all'inizio dell'anno e alla fine ha 1000 di euro, noi potremmo andare a chiedergli questi soldi, caro signore, come li ha spesi, dove li ha spesi, vi piace quello che è stato definito il blitz a Milano, come a Cortina, come ora pare al sud, si è cominciato a Taranto, della Guardia di Finanza, beh certo risultati, questo almeno da un primo esame, più 44% la percentuale di incassi registrati negli esercizi commerciali controllati, 200% alcuni aumenti di incassi di uno dei ristoranti controllati, 116 lavoratori in nero riscontrati in 33 locali. Saluto l'ex procuratore capo di Treviso, Antonio Foiadelli. Dottor Foiadelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Così come saluto Matteo Salvini della Lega, eurodeputato. Buongiorno Salvini, anche buongiorno a tutti. A Milano, consigliere comunale. Dottor Fojadelli, lei ha detto, e subito l'hanno accusata di una sorta di volere la gogna fiscale, siccome la minaccia della pena non è sufficiente, bisogna utilizzare anche l'arma della vergogna pubblica. Lei vorrebbe sapere, per esempio, i nomi di chi è stato controllato e c'è qualcosa che non va? Dunque, io devo fare una precisazione, naturalmente. Come ci siamo abituati all'idea e la accettiamo normalmente che tutte le dichiarazioni dei redditi vengano pubblicate sul giornale, così dovremmo anche accettare l'idea che coloro che a questo obbligo sacrosanto di contribuire alle casse dello Stato non hanno adempiuto, vengano ad un certo momento resi noti. Un motivo è molto semplice, poiché si dà notizia normalmente, con tutte le dovute cautele, ma si dà notizia normalmente di un fatto illecito, citando sia l'autore sia la vittima, poiché qui la vittima è l'intera, sono tutti i contribuenti, cioè tutti coloro che compongono la comunità e concorrono alle spese della comunità, è giusto che si sappia. Ecco. Cioè lei vorrebbe leggere il signor Pinco Pallino ha evaso tot euro al fisco. Però con a un patto che evidentemente la notizia sia controllata e sia soprattutto vera e certa, ovviamente. Beh, certo, quindi sì. Non che si altrimenti si cadrebbe in quella accusa, in questo caso giusta, di voler fare una gogna mediatica, di strumentalizzare notizie di questo genere a fini diversi da quelli che sono quelli legittimi. Però se notizia accertata, vera e confermata, diciamo, in tutti i gradi di giudizio, di se uno fa ricorso eccetera, è giusto che si sappia che è una persona. Secondo me sì, come è giusto che si sappia quanto tu contribuisci alle casse dello Stato, è altrettanto giusto che si sappia quanto tu hai, come dire, violato questo obbligo. Senta, cosa ne pensa di quello che del vento, qualcuno che dice che sta cambiando nella lotta all'evasione fiscale? Lei lo percepisce da comunque da magistrato? Guardi, effettivamente è così, credo di averlo anche dichiarato ad altri suoi colleghi. Improvvisamente ci si è accorti che siamo vissuti troppo a lungo in una sorta di clima di indulgenza, non dico di connivenza, ma certamente di tolleranza eccessiva per quanto riguarda condotte che ad esempio in altri paesi come gli Stati Uniti sono esecrabili. Da noi l'evasore molto spesso e addirittura anche a volte in termini giurisprudenziali è stato visto quasi come il furbo, il famoso furbo, colui che è più furbo degli altri. In verità è soltanto un ladro perché sottrae, mette le mani nelle tasche di tutti gli altri suoi concittadini. Allora, Matteo Salvini oggi ha già visto Attilio Befera oggi su Repubblica, si è già rovinato la giornata, immagino, oppure no, non ancora, non l'ha letto. Non seguo mediaticamente il dottor Befera e i suoi 450.000 euro all'anno di stipendio. Ah, va bene, comunque al di là dello stipendio, a pagina 3 di Repubblica, intervistato da Massimo Giannini, dice: vuole i nomi dei politici perché ci sono i politici antifisco, le faccio due nomi, il primo... Bossi a Pontida la scorsa estate, se lo ricorda? Ecco, il primo nome che cita è Bossi. Perché la Lega è effettivamente molto molto dura nei confronti di questa azione del fisco? Innanzitutto, sotto il governo Berlusconi con la Lega negli ultimi due anni c'è stato il record storico della Repubblica Italiana di recupero dell'evasione fiscale, quindi stiamo parlando di una Lega e di un governo che hanno portato dei dati e dei risultati concreti senza fare il cinema, senza mandare 400 persone a andare a scovare qualcuno che non fa lo scontrino, ma andare a rovinare il lavoro, la serata e la reputazione di tanta gente che fa il suo lavoro per bene, a 20 dipendenti tutti regolarmente a libretto. E quelli non gliela rovina la reputazione se uno è tutto in regola. E guardi, non so se lei conosce il mondo, però se lei avesse un bar, una gelateria, un negozio, un ristorante, avesse 10 persone tutta la sera vicino alle casse, vicino ai tavoli dei clienti, che controllano tutto quello che accade, io fossi un cliente non tornerei in quel posto perché minimo penso che si spacci droga lì dentro. E non a caso a Milano hanno chiuso circa 500 bar ed esercizi commerciali negli ultimi tre mesi, quindi la situazione economica è già disastrosa. I blitz alla John Wayne beccano qualche furbo e fanno bene a beccare qualche furbo, rovinano altre decine di commercianti per bene, come se Milano fosse la capitale dell'evasione. Due riflessioni su quello che ascoltavo prima dall'ex procuratore. Gli Stati Uniti hanno la metà della tassazione italiana, Lombardia e Veneto, secondo gli studi del Sole 24 Ore, hanno il record mondiale della pressione fiscale sull'impresa privata che supera il 50%. Quindi probabilmente, come ci racconta Oscar Giannino tutti i giorni, una pressione fiscale insostenibile porta a cercare via di fuga da parte l'evasione fiscale di necessità. Ecco questo. Assolutamente. Ecco. Chi evade per farsi la villa in campagna o il Porsche Cayenne, per quanto riguarda mi riguarda, può finire in galera e si può buttare via le chiavi. Esiste un'evasione per sopravvivenza, per legittima difesa, perché il primo evasore è lo Stato. Io lo dico al dottor Pogliadelli, pubblichiamo il nome dello Stato che è debitore nei confronti dei privati italiani di 70 miliardi di euro. E poi non scherziamo, io a Milano ho proposto appunto la pubblicazione dei nomi dei pedofili all'ennesimo caso di pedofilia, e mi hanno detto che non si può per la privacy. Adesso sentire da un ex procuratore che il pedofilo va tutelato anche se preso sul fatto per la privacy. E chi non fa lo scontrino va messo in piazza. Siamo veramente al surreale. Non so se questa è la linea di Fogliadelli. In ogni caso, procuratore, la questione dell'evasione per necessità mi interessa, perché lei tra l'altro ha operato e vive in una zona, il nord-est, dove ci sono anche molti imprenditori che si sono tolti la vita. È un problema molto molto serio della questione dell'evasione per necessità che molti portano avanti. Rispondo subito con altrettanta pacatezza quanta ne ha usata l'onorevole Salvini, e devo dire che sulle premesse che lui ha citato possiamo essere sostanzialmente d'accordo. Dove non sono più in accordo è sulle conseguenze che se ne vorrebbero trarre. Non c'è dubbio che anch'io sono contrario alla spettacolarizzazione di tutto quello che riguarda il rapporto tra l'autorità, lo Stato ed il cittadino. Sono altrettanto d'accordo sul fatto che vi sono diverse velocità in questo paese e che ci sono delle anomalie. Tuttavia è evidente, non potrei dire cosa diversa da quella che sto dicendo, che queste vanno corrette modificando le regole, modificando i sistemi, modificando anche le procedure e le condotte, anche soprattutto da parte dell'autorità dello Stato. Non posso essere d'accordo sul fatto che vi sia una sorta di autodifesa che legittimerebbe la violazione di quelle regole. Le regole si cambiano, ma una volta che esistono vanno rispettate. È legittimo criticarle, è legittimo darsi da fare per cambiarle, ma non si può assolutamente, dal mio punto di vista, affermare che ci si fa una sorta di riserva se rispettarle o meno, a seconda, altrimenti salterebbe per aria l'intero sistema della legalità. L'accusa però da cui voglio ripartire è che questa, dice Salvini, che è poi quello che dice anche il nostro Oscar Giannino, ma su questo io dibatto con lui in redazione, appunto, è: siccome lo Stato è il primo a non rispettare le regole, ecco allora che anche molte persone si sentono giustificate nel non rispettare le stesse regole. Allora vorrei sentire un paio di ascoltatori. Lina da Taranto, è giusto, da Taranto, Lina? Sì. Dove tra l'altro mi risulta che la Guardia di Finanza ha iniziato a controllare anche al sud. Le risulta questa notizia? Gliela sì, do io. Per voci di corridoio, sì, e sono ben contenta. È contenta. Sì. Che dice lei, Lina, di quello che sta succedendo? Che condivido pienamente. Mi piace anche lo spot pubblicitario dell'Agenzia delle Entrate che ultimamente hanno costantemente quello del parassita. Sì, cioè, del parassita è molto bello, molto bello, e credo che questa cosa condizioni molto ogni cittadino, tanto da stimolarlo a ragionare in un certo modo, perché sono d'accordo quando si dice che è anche una forma di cultura che dovrà crescere in ognuno di noi. Quindi lei è d'accordo, grazie Lina. Maurizio da Siena, buongiorno Maurizio. Buongiorno a lei. Senta, io sono d'accordo con quanto riguarda, diciamo, tutte queste attività di controllo, perché ci danno, diciamo così, il termometro di quello che succede in Italia, ma nello stesso tempo io vorrei andare un cappellino oltre, cioè andare a vedere il perché chi ha un'attività improprio, piccina, quello che può essere un esercizio commerciale, spesso si trova alle volte così, diciamo, tra virgolette, costretto a dover esercitare questa forma di evasione fiscale. Lei la capisce un po' questa, l'evasione di necessità, come dice Salvini, l'evasione per sopravvivere? Sì, io ho visto piccole attività che in qualche modo hanno subito un controllo fiscale negli scorsi anni, hanno quindi poi ricevuto delle forti cartelle esattoriali, hanno chiuso, sono tornati a fare lavoratori dipendenti, perché loro alzano il bandone alle 6 del mattino, lo chiudono alle 8 di sera, magari fanno 1000 euro al mese di pulito. Poi vediamo tutti questi funzionari, ci stanno nei comuni, province, regioni, quante ore al giorno, non hanno neanche una seggiola dove andare a sedersi. E prendono 3.000 euro. No, ma lei pone, ma lei pone l'accento su un problema che c'è, ripeto, soprattutto nel nord-est dove c'è Foiadelli. Grazie Maurizio. Matteo Salvini, però la mia provocazione è questa, cioè dire: siccome lo Stato è ladro e siccome lo Stato è il primo a essere ladro, rubacchio anch'io se posso. È un po' l'elevazione all'ennesima potenza del discorso politico di Craxi, no? Siccome qua si alzi in piedi chi può dire di non aver rubato qui in Parlamento, cioè siccome rubano tutti, rubo anch'io. No, ma la Lega è nata probabilmente anche per questa moralizzazione a tutti i livelli, quindi ripeto, evadere è un reato ed è anche un peccato, ci ricorda qualche cardinale. Se l'Italia ha record mondiale della pressione fiscale e poi il cittadino, sia imprenditore, sia dipendente, sia pensionato, vede come spesso e volentieri lo Stato spreca i quattrini che va a recuperare dalle tasse, qualche dubbio uno se lo pone. Qual problema però, e torno all'ascoltatore di Siena, è che si sta facendo di tutto per ammazzare, disincentivare, stroncare l'impresa privata. Io ricordo a me stesso che se non ci fosse l'impresa privata non ci sarebbe lavoro, perché non si può fare tutti i dipendenti pubblici. A Milano, in questo primo mese del 2012, fra il super ecopass da 5 euro al giorno, la nuova tassa di occupazione di suolo pubblico, la nuova tassa sui passi carrai, l'aumento di IVA e IRPEF, è una strage di imprese private, ma non dei ricconi di Via Monte Napoleone a cui se sequestrano il Porsche Cayenne sono il primo a divertirmi, è una strage di piccoli negozi, di artigiani, di partite IVA che non riaprono più e licenziano uno, due, tre dipendenti a testa e lì non c'è cassa integrazione che tenga. Quindi io dico che questi blitz hanno come risultato che sabato prossimo ci sarà un meno 50% e ci saranno alcuni centinaia di posti di lavoro che saltano. Procuratore, questa visione è una visione a medio termine di Salvini che le pare un po' terroristica dal punto di vista. Però il problema c'è, procuratore. Non c'è alcun dubbio che il problema esiste ed è anche verissimo che noi abbiamo nel nostro paese la più alta pressione fiscale e quando vi è un eccesso di pressione fiscale vi è una depressione e quindi mancano gli incentivi dal punto di vista economico. Questo è verissimo, non lo contesto per nulla. Quello che dico è che questo non giustifica una sorta di reazione che ti autoassolve. Diciamo la verità, occorre, e la signora mi pare che è intervenuta da Reggio Calabria, l'ho detto molto bene, occorre ritrovare una fiducia tra lo Stato e il cittadino. Quando lo Stato agisce con determinati metodi che abbiamo visto anche spettacolari recentemente, ecco, secondo me si sbaglia da un lato e come si sbaglia dall'altro quando il cittadino si tenta o sostiene la legittimità della difesa. Le tasse sono molto alte perché se le pagassimo tutti lealmente sarebbero più basse. Questo è il concetto di fondo. E questo è il concetto sul quale Oscar Giannino già si sarebbe arrabbiato, non so se lei ha avuto modo di incrociarlo. Lo Stato, dice lui, se prende più tasse se le tiene, non le redistribuisce ai cittadini. Comunque vorrei sentire Gianni da Firenze, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io volevo spendere alcune parole proprio su questo argomento che lei, Milan, tirava in ballo, quello che è così tanto caro a Oscar Giannino. A me sembra che queste tempeste mediatiche foraggiate dall'Agenzia delle Entrate siano assolutamente fuori luogo per ben due motivi. Prima di tutto, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono preposti a riscuotere i tributi e hanno tutti gli strumenti per farlo, da sempre, assolutamente, senza alcuna necessità di fare queste pagliacciata del sabato e della domenica, perché è sufficiente che È vero a metà, Gianni, però, perché per scoprire se c'è un lavoratore in nero in un locale, come fa uno a scoprirlo se non va lì a chiedere, per esempio? Ma certo, su questo posso essere d'accordo. Certamente se si va il sabato la sera, quando questi locali hanno, diciamo, della loro affluenza, è probabile che questo possa succedere, anche perché, diciamocelo francamente, i meccanismi di accesso al lavoro sono talmente rigidi che non permettono di avere una regolarità di lavoro con dei picchi, in modo da avere, diciamo, un impatto sui costi e sui Però lei le definisce una pagliacciata questa cosa. Sì, perché gli strumenti strumenti per fare i loro controlli sono da sempre, sono disponibili, si possono fare i controlli seriamente, in maniera... stando dietro a una scrivania. No, ma sa, la interrompo anche perché il cellulare un pochino ci sta abbandonando. Comunque, se hai capito il senso del suo intervento. Salvini, ma la Lega non è che sta cercando di cavalcare questa protesta anche per consensi elettorali? Perché fa anche, è anche fare politica. Nel federalismo fiscale noi abbiamo previsto che i comuni possano incassare la metà dell'evasione che vanno a recuperare. Quindi per noi la lotta va fatta e va fatta seriamente, non l'ultimo weekend del mese, che da che mondo è mondo è quello dove incassando gli stipendi locali sono più frequentati, non a casaccio con 400 persone che neanche a Casal di Principe vengono schierate per fare i blitz contro la malavita, e non poi mettendo tutti nello stesso calderone. Sa cosa ha detto un commerciante? Princi, la famosa panetteria, ha detto: sembravano della Gestapo, incattiviti, spietati, esagerati e cattivi. Lei condivide? Ma non li ho visti, non lo so, fanno il loro lavoro, spesso e volentieri fanno questo lavoro senza particolare buon senso. Io ho testimonianze di persone che per una multa di divieto di sosta scaduta, trasformatasi in cartella esattoriale, hanno avuto l'ipoteca sulla casa. Quindi se apriamo, poi voi lo fate spesso meritoriamente, il capitolo sul buon senso e l'elasticità mentale di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate, qua sì che c'è da fare. È un bel capitolone. Intanto io vi ringrazio, Matteo Salvini, eurodeputato della Lega e l'ex procuratore capo di Treviso, Antonio Foiadelli, con tutta la redazione. L'appuntamento lo rinnoviamo a domani alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 13 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco ad prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.